lascerò quel gran bravo ragazzo, la parte mia di pazzo che non si piegherà. Di me vi lascerò quell'entusiasmo antico, è lui il mio vero amico, non vi abbandonerà, ma mi dispiacerà lasciarvi le bugie che tutti quei saccenti maldicenti e fannulloni sussurrano di me, ma non vi lascerò il male che ho subito, perché l'ho già scordato e solo il bene ho conservato, ed io quello lascerò. Lascerò albe meravigliose, l'amore per le rose che io non colsi mai. Di me vi lascerò le mie malinconie, giornate di poesie, le grandi ingenuità. Ringrazio tutti e in più quelli che mi hanno amato, sapendo di trovare niente in più che io sappia dare e di non chiedermi di più. Io non vi lascerò ciò che non è servito, ma se una cosa sola ha fatto nascere un sorriso, io ve la lascerò. Lascerò me di quando ero vivo, la musica che scrivo là nell'immensità.